Il Falco e il Gabbiano presenta Chuck si vola di Enrico Ruggeri. Il Padrino. Oggi vi chiedo di seguirmi in un viaggio che dalla Sicilia di fine 800 ci porterà in America assieme a milioni di emigrati italiani, un flusso di persone durato decenni, gente in fuga dalla fame, intere famiglie che partivano per non tornare, per costruirsi un nuovo futuro oltreoceano, perché lì c'era bisogno in America di manodopera e di persone che andassero a dare una mano. Hanno 10 milioni di italiani che lasciarono le loro case d'origine tra la fine del secolo e il 1925. Contadini che coltivavano la terra dei grandi latifondisti, nuclei familiari, ma anche giovani senza arte né parte, attirati da una terra che prometteva possibilità e si diceva che chiunque lì poteva conquistarla, la felicità. Bene, tra questa marea di persone c'è il nostro protagonista, è un bambino in fuga dalla Sicilia, è in viaggio completamente da solo, è l'unico sopravvissuto della sua famiglia alla violenza di un boss in un paese quasi di montagna, a meno di 50 chilometri da Palermo, il paese di Corleone. Vito Andolini, questo è il nome del nostro protagonista. Lui nasce a Corleone nel 1891, è un bambino silenzioso, parla pochissimo, osserva tutto con i suoi occhi intelligenti e tende a passare inosservato. Poi la tragedia, non ha ancora 10 anni quando il padre Antonio viene ucciso dal boss mafioso che comanda in quella zona, si chiama Don Ciccio, e il padre viene ucciso perché si è rifiutato di pagare un tributo. Il fratello di Vito, Paolo, che è un adolescente, promette vendetta, si dà alla macchia, va alla ricerca di Don Ciccio. I sicari di questo mafioso lo trovano proprio il giorno del funerale del padre e lo uccidono a colpi di lupara. Insomma, Vito resta solo con la madre che, nell'estremo tentativo di salvare l'ultimo figlio, chiede udienza proprio a Don Ciccio. Baciamo le mani, Don Ciccio. Che vuoi? Don Ciccio, ma ammazzaste a mio marito perché non si volle piegare. Eppure o figlio mio grande, Paolo, per chi aveva giurato vendetta. Non mi resta che Vito. Avi solo 9 anni, un'anima innocente. E non parla, non apre mai bocca. Non sono le parole che mi fanno paura. Ma Vito è di poca salute. Tu con un soffio l'abbatti. E se quando cresce, cresce forte? Ma sta tranquillo, Don Ciccio. Tu picciridi non ci può fare niente. E poi non lo te giuca. Un anno fuori, lontano tuo paese. Cristo lo tengo con me, a costo che non può fare vendetta. Fatemi la grazia, Don Ciccio. Lasciatela a me, sto figlio mio. No. Fitta, attendi! Fitta, mi muove a mazzo! Figliatro! Vattene, figlio! Fitto, vattene! Vito scappa, si nasconde, ormai è solo al mondo perché i picciotti di Don Ciccio lo cercano per tutto il paese, minacciano conseguenze se il bambino non verrà consegnato. Poi c'è un conoscente che lo nasconde nelle ceste che sta trasportando a dorso di mulo, insomma gli salva la vita, però la mano di Don Ciccio è lunga, lì si arriva ovunque, l'unica possibilità di sopravvivere per Vito è quella di andare il più lontano possibile. Insomma, il bambino con poche cose in valigia viene imbarcato in una di quelle navi che in quei mesi stanno salpando dai porti siciliani, la destinazione Stati Uniti. Vito è solo quando arriva a Ellis Island, gli immigrati vengono fatti transitare prima di poter entrare in paese. Il cognome Andolini viene modificato sui documenti d'ingresso per un errore, cioè viene scambiato col luogo di nascita. Insomma, nasce Vito Corleone. Lì c'è da passare la quarantena perché gli italiani, gli immigrati che arrivavano in America venivano messi in quarantena, 40 giorni isolati per evitare che contagiassero gli americani. E poi il ragazzino viene accolto da una famiglia di lontanissimi parenti, si chiamano Abbandando, vivono nel Lower East Side di New York, Little Italy, dove migliaia di italiani hanno ricreato un pezzetto d'Italia, hanno tenuto viva la lingua, le tradizioni contadine. E in un certo senso, se andate a Little Italy, a New York, è ancora un po' così, è un mondo a parte, e lì Vito inizia la sua vita americana e lega moltissimo con il figlio degli Abbandando, Genco, che in futuro diventerà una figura molto importante per Vito. Il giovane Vito andò a lavorare nel negozio di alimentari di Abbandando, nella 9th Avenue della New York Sales Kitchen. A 18 anni si sposò con una ragazza italiana appena arrivata dalla Sicilia. Ne aveva solo 16, ma era già un'abile cuoca e una buona massaia. Si sistemarono in un caseggiato popolare della 10th Avenue, vicino alla 35esima strada, a pochi isolati da dove Vito lavorava. E 2 anni più tardi furono benedetti dalla nascita del primo figlio, Santino, chiamato da tutti gli amici Sonny. L'esistenza di Vito è completamente onesta, lavora nel negozio dei parenti e riesce in qualche modo a portare in tavola il cibo per la famiglia fino a un momento specifico. È in quei momenti, in quei giorni, gira per le strade a Little Italy un personaggio un po' particolare, si chiama Fabrizio Fanucci e tutti gli attribuiscono l'appellativo di Don, è un napoletano. Si dice faccia parte della Mano Nera, che era una specie di Cosa Nostra ante litteram. Chiede il pizzo ai commercianti in cambio di protezione, bagna il becco. La parola pizzo deriva proprio da questa espressione siciliana, fare bagnare un pizzo, cioè far bagnare il becco. E il giorno in cui Don Fanucci entra nel negozio degli Abbandando, la vita del nostro protagonista cambia completamente. Te saluto, Abbandando. Questo è mio nipote. Comandiamo col business. Devo buono, devo buono. Ringraziando il signore. Allora, che faccio? Hai visto, Don Fanucci è arrabbiato, incazzato con tutti. Dice che finisce a schifio. Dice che la gente non lo paga a tempo. Sto stancato da aspettare. Lui è troppo buono con tutti. Ma io non posso. Ti dico che non posso. Questo mese non ci arrivo. E tu è sempre più carogna. Ma è contento, E ora vuole il doppio da tutto il quartiere. Questo nipote mio deve lavorare. Pure da me pace. E tu lo fai lavorare qua. D'accordo. Bravo, bravo. Ti ringrazio. E il lavoro che Abbandando è costretto a dare al nipote di Fanucci è ovviamente quello di Vito, che di colpo si trova disoccupato. Sarà un altro incontro però che sistemerà le cose, farà cambiare a Vito, ormai Vito Corleone, e farà cambiare la prospettiva, e drasticamente direi. E Vito è preoccupato, non sa come sostentare la sua famiglia che si è appena allargata perché è arrivato un secondo figlio maschio, Federico detto Fredo, e riesce a fare qualche lavoro saltuario ma non riesce a garantire un pasto ogni giorno a tutti. Insomma, una sera mentre a tavola con la moglie sente una voce concitata che lo chiama, è la finestra della casa di fronte. Paesano! Ma chi è? Chi è? Affacciati da questa parte, presto! Nascondimi sta roba, per favore, finché non me la venga a picchiare. Nascondi tutto, lesto. E così il nostro protagonista conosce uno dei suoi futuri soci e collaboratori, Peter Clemenza. È un piccolo delinquente del quartiere e quello che gli ha passato dalla finestra è un fagotto di stoffa. Dentro ci sono alcune pistole. Lui non fa domande, nasconde il pacco. Qualche giorno dopo Clemenza glielo chiede indietro. Lui, che è molto riservato, piace subito a Clemenza e gli propone un lavoro. Insomma, insieme al suo socio Salvatore Tessio, loro rapinano camion pieni di capi di abbigliamento che poi verranno rivenduti nei negozi di Little Italy. Insomma, azioni senza spargimento di sangue, gli autisti che non si fanno pregare di fronte alle pistole a mollare il carico. Clemenza chiede a Vito di fare da autista in queste operazioni. Lui accetta, si comporta bene, gli affari cominciano a girare e risvegliano l'appetito di una vecchia conoscenza, Don Fanucci. La gente mi dice che tu, l'amici tuoi, che state ricche, ha rubato vestiti e non me ne mandate neanche uno. E che rispetto chi sto qua, lo sapete che chi sei quartiere mio. Tutto sto commercio qua è sotto il mio controllo. E quando uno me ne sfrugula nel quartiere, chi sta in mancanza di rispetto. Vestiti belli, sto fa buona. Dove mangiate voi, mangio pure io, no? Venga a sapere che guadagno vostro è di 900 scudi puliti. Me ne date 300 a testa. Evita la mia protezione. E mi scordo lo sgarro che avete fatto. Voi picciottiella non sapete che ci vo' rispetto per nuovo come a me. Clemenza e Tessio sono pronti a pagare il pizzo, hanno paura. Vito non è convinto perché comincia a pensare che Fanucci in realtà stia un po' bluffando, cioè non abbia le coperture importanti che vanta di avere. E non tutti nel quartiere gli pagano il pizzo, insomma Fanucci forse non è così potente, così intoccabile come vuol far credere. Allora Vito propone a Tessio e Clemenza di dargli una quota molto inferiore alle pretese, di lasciare fare a lui il resto, insomma penserà lui a convincerlo con un'offerta che non potrà rifiutare. Lui ha un piano, non lo rivela, ha capito che le buone intenzioni e l'onestà non possono bastare per sopravvivere. Vito Corleone ordinò alla moglie di portare dopo cena i due bambini, Sonny e Fredo, nella strada e di non lasciarli assolutamente salire in casa. Lei doveva sedere di guardia all'ingresso del casamento. Aveva degli affari privati con Fanucci che non potevano essere interrotti. Colse lo sguardo di paura sul suo volto e si irritò. Le disse con calma: «Credi di aver sposato uno sciocco?» Lei non rispose. Non rispose perché era spaventata. Non per Fanucci ora, ma per il marito. Stava visibilmente cambiando davanti ai suoi occhi di ora in ora, in un uomo che irradiava una forza pericolosa. Era stato tranquillo, parlava poco, ma sempre gentile, sempre ragionevole, il che era straordinario per un giovane maschio siciliano. Vedeva che stava perdendo l'aria di innocenza, ora che era pronto a partire per il suo destino. Partiva tardi, aveva 25 anni, ma con grande clamore. Vito Corleone aveva deciso di uccidere Fanucci. E così Vito va incontro al suo destino. Nelle strade di Little Italy c'è la parata, c'è il rumore, c'è folla, c'è la statua della Madonna che viene portata in processione. Vito segue a distanza Fanucci che sta rientrando a casa. Lo anticipa, passa dai tetti, lui ha una pistola. Si nasconde nel buio delle scale di fronte alla porta dell'appartamento di Fanucci. Quando il napoletano arriva, lo coglie di sorpresa. Fuori è il momento dei fuochi d'artificio, uno sparo in più non verrà notato e Vito ne approfitta. Spara un proiettile al petto, il secondo al volto. Fanucci è morto. E un attimo dopo è di nuovo sui tetti, fa a pezzi la pistola, se ne libera, torna in strada, fa in modo che la gente lo veda per costruirsi un alibi. Nessuno lo cercherà per quel delitto nel quartiere. La voce gira e da quel giorno Vito Corleone diventa un uomo temuto, rispettato. Gli abitanti del quartiere cominciano a rivolgersi a lui per risolvere delle controversie o magari per chiedere aiuto. E negli anni a seguire Vito e il suo amico Genco cominciano a avviare un'attività di importazione di olio d'oliva dalla Sicilia, la Genco Olive Oil. È un'attività apparentemente legale, anche se l'acquisto dell'olio viene poi imposto ai commercianti di tutta New York con dei metodi, diciamo, poco ortodossi. Soprattutto è una copertura, il punto di partenza di una nascente struttura mafiosa, della quale il capo è Vito. Genco è un consigliere, Tessio e Clemenza sono dei capi regime, insomma sta nascendo Cosa Nostra americana. La struttura organizzativa la sta inventando proprio lui, Don Vito Corleone. Chuck Sivola, il padrino. Nella New York dei primi anni del Novecento c'è un italiano che sta seguendo la sua strada, che sta facendo la sua strada, una strada che il destino gli ha messo davanti, è una strada fatta di onore, di famiglia, di rispetto, ma soprattutto di violenza. Vito Corleone, nato Andolini, scappato a 10 anni dalla Sicilia per salvarsi dalla morte che era stata decisa da un boss locale, Don Ciccio, che gli aveva ucciso tutta la famiglia. E adesso siamo nel 1923. Vito ormai è un uomo ricco, ha fatto fortuna con la sua azienda di import-export di olio d'oliva, la Genco Olive Oil, ma soprattutto con attività illegali che sta strutturando assieme ai suoi capi regime Clemenza e Tessio. Adesso peraltro può regolare i conti anche col passato, con quel boss Don Ciccio che molti anni prima aveva fatto uccidere il padre per uno sgarbo, e poi il fratello che aveva giurato vendetta, e infine anche la madre quando era andata a chiedere pietà per il suo unico figlio rimasto. Vito deve tornare a Corleone, era scappato a 10 anni, adesso è il momento di regolare i conti con quel passato terribile. Lui adesso è molto più potente di Don Ciccio, si fa accompagnare a casa del boss che ormai è vecchio, sembra una visita di cortesia. Don Ciccio, Tommasino sogno. Baciamo le mani. Se Bossia mi volesse fare l'onore, ci volesse fare conoscere un socio mio in America, a New York. Si chiama Vito Corleone. È un nesto picciotto di New York. Cai, è vicino a me, Don Ciccio. Fallo vedere più vicino, perché poi io non ci vedo tanto buono di lontano. Vieni qua, Vito, che Don Ciccio ti vuole conoscere. Baciamo le mani, Don Ciccio. Come ti chiami? Mi chiamo Vito Corleone. Vito Corleone? Sì. Ti mi chiesto un nome di sto paese, eh? Sto paese, come si chiama? Vito si chiamava Antonio Andolini. È più forte, non si sento buono. Avvicinati. Mi pare si chiamava Antonio Andolini. E chi se pittia? Oh, Vito del bottone! È una coltellata che squarcia lo stomaco di Don Ciccio. Insomma, Vito ha pareggiato i conti col boss e col suo passato, e adesso il paese di Corleone è sotto il suo controllo. Torna a New York e sta proseguendo questo processo di consolidamento del suo potere personale. Intanto la famiglia si è allargata ancora, perché la moglie Carmela, dopo Santino e Fredo, ha messo al mondo un altro maschio, Michael, e poi finalmente una femmina, Costanza. Tutti la chiamano Connie. In casa arriva anche un altro ragazzino, si chiama Tom Hagen, ha origini tedesco e irlandesi, è orfano, è un orfano di una decina d'anni, è un senza tetto, viene raccolto per strada da Santino, viene preso in casa da Vito, che non lo adotterà mai legalmente, ma lo terrà in famiglia, lo farà studiare da avvocato, lo nominerà suo consigliore alla morte di Genco Abbandando. La conquista del potere a New York da parte di Vito Corleone, insomma, non è una cosa semplice. Fino agli anni 30 la sua struttura è solo una delle tante bande che si stanno contendendo gli affari illeciti in questa economia particolare, diciamo post crisi del 29. Ci vorrà una guerra per portare Vito ai vertici. E la guerra ha luogo nel 1933, il proibizionismo è finito, quindi è finito il grande business illegale che ha garantito alla malavita grandi utili, perché la messa al bando dell'alcol, insomma, ha creato un grande business, e gli equilibri di potere si sono rotti. La famiglia dominante è quella dei Maranzano, che sono alleati con i Tattaglia e i Barzini e vogliono eliminare tutti gli avversari. Così nel mirino finisce Vito, che è l'emergente, quello da fermare finché si è in tempo. Lui però respinge l'attacco, mostra addirittura doti da condottiero militare, insomma alla fine si impone anche grazie all'aiuto di un killer terribile, spietato, si chiama Luca Brasi, è un sicario, è uno capace di fare a pezzi un uomo solo per il gusto di vederlo morire lentamente, insomma è un pazzo, è uno psicopatico, ma è quello che gli serve. Sono gli anni in cui intanto Santino, che ha 17 anni, convince il padre a lasciarlo entrare nel business di famiglia, e lui in realtà Don Vito non desiderava quello per i suoi figli, ma come spesso dirà lui stesso, il destino di ognuno è già scritto, insomma non ci si può opporre. Mentre guardava i politici, gli avvocati, i giudici, i poliziotti, i detective che si mescolavano ai capi delle famiglie e a tutti i loro uomini, Sonny si rese conto che la sua famiglia era la più potente di tutte e che niente sarebbe riuscito a fermarli. Avevano tutto e non c'era nessun ostacolo sulla loro strada. Era il figlio maggiore e sarebbe stato l'erede di quell'impero. Alla fine la guerra di mafia è vinta e la famiglia Corleone è al vertice di Cosa Nostra a New York. Vito ha costruito una vera e propria organizzazione che si ispirava alla struttura militare degli antichi romani. C'è un boss assoluto, poi ci sono i capi regime e poi giù fino ai soldati in una piramide. E New York viene divisa tra le 5 famiglie mafiose più potenti, quella di Corleone è la più importante. Vito ha creato una rete di appoggi politici attraverso la corruzione a poliziotti, a giudici, a politici appunto, e lui tira i fili. I burattini sono quei personaggi della società che lui stesso definirà pezzi da 90. Ma quello che spinge Vito in ogni scelta è la famiglia. Tutto quello che fa, gli affari illegali, le uccisioni, il denaro con il gioco d'azzardo, la prostituzione, tutto serve per il benessere della famiglia, che come sappiamo è sacra. E lui sa che Santino è destinata a una vita di illegalità come la sua, spera che almeno Fredo e soprattutto Michael possano seguire strade diverse. Per il maschio più piccolo, lui spera in una carriera politica, sogna magari un futuro senatore Corleone, vuole redimersi, entrare nell'establishment. Le cose però andranno diversamente. Chuck si vola. Il padrino. Siamo nel 1945, la seconda guerra mondiale è finita, il figlio minore di Vito Corleone, Michael, ha combattuto coi Marines contro il volere del padre, ma però è tornato a casa, addirittura con una medaglia al valore. Lui è lontano dagli affari di famiglia, non vuole saperne niente, e al fianco di Don Corleone c'è il figlio maggiore, che è Santino Sonny. Quel destino che il padrino cita spesso, il destino contro il quale non ci si può opporre, ha in serbo un evento che cambierà ogni cosa, il destino di Don Vito, dei suoi figli, della famiglia, un evento che porterà a una nuova sanguinosa guerra di mafia a New York. La scintilla è un incontro, un meeting, come lo chiamano i mafiosi. Nell'ufficio di Don Corleone ci sono i figli Santino e Fredo, i capi regime, Clemenza e Tessio, i consigliori, Tom Hagen, il ragazzo, vi ricordate, il ragazzo irlandese raccolto. Ricevono un piccolo boss, Virgil Sollozzo, e alle spalle di questo Sollozzo però c'è un'importante famiglia, quella dei Tattaglia, e lui propone a Corleone di entrare nel traffico di droga, chiede finanziamenti, chiede protezione dai contatti politici e giudiziari, ma il padrino è all'antica, non gli piace il traffico di droga, vuole restarne fuori. La mia risposta è no, e ti spiego perché. È vero, ho un sacco di amici in politica, ma mi restano amici finché sanno che il mio business è solamente il gioco d'azzardo, che per loro è un vizio di scarsa importanza, ma la droga è sporca. Oh, Don Corleone. E bada, non fa differenza per me in che modo un uomo si arrangia per campare, ma il tuo business è assai rischioso. Ad ogni modo, signor Sollozzo, il mio no è definitivo. E ti faccio i miei auguri per il tuo commercio. Sono sicuro che ti andrà molto bene. Buona fortuna. Specie perché i tuoi interessi non vengono a urtare i miei. Però il business della droga è troppo importante per fermarsi davanti a un no, anche se è il no del padrino. Insomma, si va avanti. Il primo passo lo fanno Sollozzo e Tattaglia. Edizione straordinaria, Vito Corleone colpito, il presunto capo racket in fin di vita, operato sotto stretta sorveglianza della polizia. Si teme una guerra cruenta tra le bande, edizione straordinaria. I sicari hanno colpito Corleone con 5 proiettili, non sono riusciti a ucciderlo. La sua morte avrebbe costretto il figlio Sonny a trattare, però con Vito, con il boss ancora in vita, è guerra aperta. Don Vito Corleone è in ospedale, è sopravvissuto a un agguato, è grave ma è fuori pericolo. Beh, i suoi avversari decidono di finire il lavoro proprio in ospedale. Hanno un complice, è un capitano di polizia corrotto, si chiama McCluskey, fanno allontanare tutti gli uomini che sono di guardia e lasciano via libera ai sicari. Arriva Michael, però proprio Michael, il figlio minore, quello che non voleva occuparsi delle questioni di quella famiglia, è proprio lui che intercetta il piano, che lo sventa per un pelo, e nel farlo fronteggia McCluskey, che gli rompe la mascella con un pugno. Ma è il primo passo di Michael verso gli affari di famiglia, e il secondo sarà più consistente sarà la manifestazione del futuro ineluttabile verso il quale è destinato. Anche se propone un accordo, Sollozzo vuole uccidere papà, questo è sicuro. C'è una soluzione: eliminare Sollozzo. Loro vogliono incontrarsi con Bevero. Quindi saremo io, McCluskey e Sollozzo. Accettiamo l'incontro. Dì ai nostri informatori di scoprire dove lo vogliono fare. Bisogna insistere su un posto pubblico, un bar, un ristorante, qualunque posto. Dovunque c'è gente, io sarò al sicuro. Quando arrivo, loro due mi frugheranno, vero? Non potrò avere un'arma con me. Ma se Clemenza trova lui la maniera di farmi avere una pistola lì al momento giusto, io li ammazzo. E Michael esegue il duplice omicidio, dimostra sangue freddo, lucidità, poi viene fatto scappare in Sicilia mentre a New York infuria la guerra tra i mafiosi. È una guerra che sarà lunga anni, che conterà decine di vittime, tra le quali Sonny, il figlio di Vito destinato a prenderne il posto. Sarà questa morte a spingere il padrino, debole ma di nuovo capo della famiglia, a cercare la pace con gli altri boss. Io non voglio vendicare mio figlio ucciso. Ed è per egoismo che rinuncio. Un altro mio ragazzo ha dovuto lasciare questo paese per via di quella storia di Sollozzo. E ora stiamo cercando il modo di farlo rimpatriare in tutta sicurezza, libero da quelle false accuse. Ma io sono superstizioso, sapete. E se gli capitasse un incidente, o se pigliasse una palla nella testa da parte di qualcuno della polizia, o se lo trovassero impiccato nella sua cella, e perfino se fosse colpito da un fulmine, qualcuno dei presenti ne sarebbe responsabile. E allora io non perdono. Ma tolto questo, vi prometto e vi giuro, sulla testa dei miei nipotini, che non sarò io il primo a rompere la pace stipulata oggi. Michael può tornare a casa. Sonny è morto e Fredo è incapace, non è all'altezza di ruoli di comando. Tocca a Mike il ruolo di capofamiglia. È una transazione di poteri necessaria perché Don Vito è stanco, l'attentato l'ha provato fisicamente, a malincuore accetta quel destino, un destino così diverso da quello che aveva immaginato per il suo figlio minore. Io sapevo che a Sonny sarebbe toccata una vita così, ma non volevo che lo facessi tu questa vita. Io ho sempre lavorato e non ho rimorsi, ho avuto cura della mia famiglia e ho sempre rifiutato di fare il pupo, attaccato ai fili tenuto in mano da quei pezzi a 90. E non ho rimpianti, era la mia vita, ma pensavo che un giorno finalmente sarebbe toccato a te tenere i fili. Il senatore Corleone, il tempo non mi è bastato. Non ho avuto il tempo. E questa è l'ultima conversazione di Vito Corleone, nato Vito Andolini, col figlio, con Michael. Poco tempo dopo un infarto lo colpirà mentre sta giocando col nipote nell'orto dietro casa. All'indomani della sua morte, Michael avvia la resa dei conti e l'ha organizzata con i consigli del padre. In poche ore fa uccidere tutti i capi dei clan avversari, elimina i traditori, anche quelli interni alla famiglia, compreso il marito della sorella Connie, compreso il caporegime Tessio. La famiglia Corleone è di nuovo la più forte a New York, è pronta a allargare il suo dominio fino al Nevada, fino a Las Vegas. Michael Corleone è il nuovo padrino, ma questa è un'altra storia che forse un giorno vi racconteremo. Il destino di un uomo a volte è una linea già tracciata, nonostante i colpi d'ala, nonostante i cambi di direzione. Almeno questo è quello di cui era convinto Don Vito Corleone, un uomo che ha compiuto un suo volo criminale senza rimpianti, senza rimorsi, rispondendo a una sua particolarissima etica e a un suo particolarissimo senso della famiglia. Insomma, codici violenti e antichi. Se volete mandare i vostri commenti, segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete a ilfalcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina, venite a trovarmi e a trovarci sui nostri social. Ci sentiamo domani per un'altra puntata del Falco il Gabbiano. È una proposta che non potete rifiutare. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri.